Informazioni sugli autori. Silvia e Dennis sono due compagni di vita che hanno scoperto insieme una passione inaspettata, la rievocazione storica. Nella vita di tutti i giorni, Dennis lavora come operaio metalmeccanico, ma quando finisce il turno, le mani non si fermano. Forgia scudi, spade e asce, lavora il legno e il cuoio, costruisce con pazienza e cura tutto ciò che serve a dare vita al passato. Silvia, di mestiere, si prende cura delle persone come estetista, ma la sua vera magia la esprime altrove, nelle rune che studia con passione, nei segnalibri e nei piccoli oggetti che crea con la fantasia e il tiro con l'arco. Due mondi apparentemente lontani, eppure perfettamente complementari. Lui che costruisce, lei che immagina. Tutto è iniziato quasi per caso, al Bundan Celtic Festival di Bondeno. Vedere con i propri occhi lavori, costumi e battaglie legate al territorio li aveva catapultati in una dimensione completamente diversa. Qualcosa si era acceso. Qualche settimana dopo, agosto 2022, passeggiando per le vie di Montagnana già addobbata a festa, con stendardi e bandiere issati e nell'aria il profumo di qualcosa di antico, Silvia disse: «Una cosa che mi sarebbe sempre piaciuta, ma non ho mai avuto l'occasione, è di sfilare per il Palio». Dennis rispose semplicemente: «Cerca, fai richiesta, e vediamo». Due giorni dopo erano già in contatto con il presidente Martino Gobbo, e così ebbe inizio la loro avventura con gli armigeri del Comitato Palio di Castelbaldo. Da lì è nata la pagina Castelbaldo Medievale, il Palio, con l'idea di partire dalla storia vera del paese e della sua fortezza, grazie anche alle preziose ricerche e narrazioni del dottor Gianni Pasqualin. Cercando, approfondendo, quasi senza accorgersene, quella passione ha preso forma e si è trasformata in un libro. Non siamo storici, non siamo scrittori. Siamo due persone comuni a cui questa terra, questa storia e questa comunità hanno cambiato qualcosa dentro. L'emozione che si respira in vallo, il profumo di festa, il battito del cuore che si confonde con quello dei tamburi, quella cosa che senti di pancia, è tutto qui, racchiuso in queste pagine. Un libro scritto per chi quelle emozioni le vive, le ha vissute, o anche solo vuole sfiorarle attraverso la carta,